in primo piano. Beh, sono le parole di Berlusconi ieri in una riunione al vertice del partito che catalizzano i titoli di prima pagina. Vogliono far cadere il governo, così la vede il Corriere della Sera, è il virgolettato di Berlusconi. Berlusconi, clima da guerra civile, i giudici vogliono farmi cadere per Repubblica, il Premier alla resa dei conti per La Stampa, Berlusconi affini, con me o fuori, questo è il Giornale, Silvio contro tutti per Libero. Insomma, questo è il clima politico. Il Sole 24 Ore apre sulla vicenda della crisi del Golfo, così è stata definita, che non è però per una volta questioni di guerra da quelle parti, ma la vicenda che ha travolto, sta rischia di travolgere finanziariamente Dubai. Dubai spaventa i mercati, poi lo vedremo. Ma ovviamente è quello che è successo ieri al vertice del Popolo della Libertà, al centro dell'attenzione dei giornali. Berlusconi molto molto duro sul Corriere della Sera, i PM cercano di farmi cadere, avanti sul processo breve e sul lodo. E Francesco Verderami spiega qual è il retroscena sostanzialmente. Prima si è assicurato l'appoggio della Lega, Berlusconi, poi ha scatenato la controffensiva sul fronte della giustizia e quello interno al suo partito. Ha esordito così nell'incontro. Questa non è una caserma, è la polemica contro la battuta di Fini. Poi ha posto l'ultimatum a quanti non si adeguassero alle deliberazioni del partito. Sarebbero fuori. Una sfida nella sfida che nel pomeriggio gli aveva lanciato la terza carica dello Stato, che aveva ribadito nel pomeriggio il voto, per esempio far votare alla Camera il provvedimento sulla cittadinanza per gli stranieri. Insomma... stavolta non mollo per un avviso, questo è anche su Repubblica il retroscena di Claudio Tito. Un avviso di garanzia: non mi ferma, non farò trattative con nessuno. Se qualcuno pensa che si debba trattare su queste vicende, sappia che io non negozio né con l'opposizione né con qualunque soggetto ritenga di potermi ricattare. Andrò avanti comunque in un modo o in un altro. Insomma, un Berlusconi che sarebbe davvero alla resa dei conti anche interna, come dire, o state con me o contro di me. Tanto che il Giornale lo mette in prima pagina. Berlusconi affini, con me o fuori, c'è il commento del vice direttore Alessandro Sallusti. Berlusconi ha deciso, il tempo dei dibattiti e dei distinguo dentro il PDL è finito. Un avviso chiaro a Gianfranco Fini e alla sua pattuglia di dissidenti. O dentro o fuori. Il PDL non deve essere una caserma, ma neppure un bordello, perché in gioco non c'è solo il futuro personale di Berlusconi. Adesso la palla, scrive Sallusti, passa a Gianfranco Fini, che ieri aveva fatto sapere a Berlusconi che avrebbe gradito un intervento moderato. Non è andata così, per fortuna, perché tra un litigio e un rinvio la maggioranza sta perdendo il controllo della situazione. Insomma, il giornale della famiglia Berlusconi parla molto chiaro dalla penna di Alessandro Sallusti in questo caso. Tra l'altro, sulla vicenda che incombe, quella della mafia, ormai lo sappiamo, oggi si concentrano ancora i giornali. Repubblica fa una lunga inchiesta, pagina, inizia in prima pagina e poi pagina 2, pagina 3, di Attilio Bolzoni e Giuseppe D'Avanzo. Cosa nostra alla resa dei conti con il Cavaliere. Sostanzialmente dice... scrivono gli autori di Repubblica che quell'avviso di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa che il giornale aveva dato per certo, ormai in arrivo per Berlusconi un paio di giorni fa, effettivamente dovrebbe arrivare. Nell'inchiesta sui mandanti delle stragi del 93, scrivono Bolzoni e D'Avanzo, entrano autore 1 e autore 2. Tecnica comprensibilissima quella della procura. Chi sono autore 1 e autore 2? Secondo le indiscrezioni sono Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, la cui posizione era stata già archiviata peraltro il 3 maggio del 2002. Se così fosse, l'atto, cioè l'atto di, insomma, di avviso di garanzia, è dovuto. E poi all'interno ci sono tutta una serie di analisi dei verbali del ormai celebre pentito Spatuzza, che il 4 dicembre, venerdì prossimo, deporrà in tribunale. E d'altronde anche Il Fatto mette questa parola, guerra civile. Il Fatto Quotidiano in apertura: guerra civile, l'incredibile minaccia di Berlusconi che attacca i giudici, l'ira del Premier per le indagini sulla mafia. E ancora Marco Lille e Peter Gomez continuano soprattutto ad analizzare i legami del presidente del Senato Schifani, i soci di Schifani, arrestati, condannati, confiscati. Anni dopo essere stati in affari con il senatore, uno dopo l'altro sono finiti in carcere. Mentre sul giornale, sotto la dicitura giustizia a orologeria, c'è anche un'analisi dei pentiti. Per esempio, i verbali dei pentiti, quelli che mette Gianmarco Chiocci. Il pentito Spatuzza, un anno fa, diceva, secondo questi verbali, i mandanti e chi li conosce. Oggi invece dice il mandante è il cavaliere. Quindi con anche stralci di verbali, pagina 8 e pagina 9, ben due pagine con tutti i verbali virgolettati di Spatuzza e, secondo il giornale, le discrepanze. Su questo parla, lo fa il Riformista in un'intervista, Maurizio Costanzo, che fu vittima di un attentato della mafia. La cosa interessante che dice Maurizio Costanzo in questa intervista a Fabrizio D'Esposito è questa. Domanda: secondo Spatuzza la strategia mafiosa, la tensione aveva mandanti politici. Non ci crederei nemmeno se mi portassero davanti il pentito e me lo dicesse, dice Costanzo. Penserei a un ventriloquo. Ma ci sono dei verbali. Ed ecco qui la risposta interessante di Costanzo. Senta, io questa storia la so da tempo. Dopo il processo di Firenze fui avvicinato da tre persone, D'Alema, Caselli e Violante. Tutti e tre mi dissero più o meno la stessa cosa. Guarda che il mandante del tuo attentato è Berlusconi. Non ci ho mai creduto, assolutamente. Non è una frase da poco. Non so se è un inedito per Costanzo, ma dire che D'Alema, Caselli e Violante gli abbiano riferito guarda che il mandante del tuo attentato è Berlusconi è sicuramente una frase forte. Trovate tutta la vicenda, per lasciare la politica, la mafia, insomma, ma la ritroveremo, tra l'altro la ritroveremo anche nel corso della rassegna stampa, perché il giornale, vi annuncio, ha una notizia in esclusiva che riguarda sempre un po' di gossip. L'incantesimo di Dubai si è rotto, voglio andare alla questione economica. Come detto, lo prendo il Sole 24 Ore, Dubai spaventa i mercati, questo è il titolo di prima pagina. Che cosa è successo? Beh, molto ben analizzato, ci sono pagine e pagine, quello che è successo nella crisi del Golfo, quella che ormai è già definita la crisi del Golfo. Angelo Mincuzzi spiega come la recessione ha sgonfiato la bolla che ha permesso l'ascesa dell'Emirato senza petrolio. Primi segnali di cedimento, i sintomi del declino sono arrivati dal settore delle costruzioni con il crollo delle quotazioni, le offerte da televendita, infatti inizia così Mincuzzi nel suo articolo, venghino signori, venghino, un'offerta eccezionale, due appartamenti al prezzo di uno, venghino signori. Insomma, c'erano già le televendite in cui si vendevano, si svendevano gli immobili a Dubai, questi erano i sintomi del declino per Mincuzzi. E poi che cosa si spiega? Si spiega a pagina 10, per esempio, qual è il rischio ora per le borse mondiali con le domande e le risposte, cosa può accadere a chi ha versato soldi per acquistare un'abitazione da una società di Dubai World, cosa sta succedendo al mercato residenziale di Dubai. Ovviamente anche la paura per un possibile effetto contagio analizzata da Alessandro Merli, con i mercati che temono ovviamente che l'insolvenza di Dubai trascini i paesi ad alto debito, e anche l'esposizione delle banche europee, e questo ci riguarda molto più da vicino, perché Monica D'Ascenzo ci fa sapere, sempre sul Sole 24 Ore, che le banche dell'Unione Europea sono esposte per 40 miliardi. Gli istituti europei dovranno affrontare un incremento del 5% degli accantonamenti, mentre per quel che riguarda l'Italia, Monte Paschi Siena, Banco Popolare, BPM, UBI Banca dichiarano di non essere esposte. Per Unicredit posizione irrilevante, mentre Banca Intesa non commenta un'eventuale esposizione per quel che riguarda la situazione di Dubai. Situazione molto in evoluzione. Sicuramente da monitorare. Io vi ho annunciato che c'è un, come si può definire, scoop, notizia sicuramente in esclusiva che ha il giornale in prima pagina. La notizia esclusiva riguarda Alessandra Mussolini e da qui voglio ripartire, vi tengo un pochino in attesa. In primo piano. ricatto hard alla Mussolini. Eccolo qui la notizia, lo scoop che ha in prima pagina il giornale con una foto a centro pagina proprio di Alessandra Mussolini. Gianni Pennacchi scrive: vedi che a innescare il ventilatore gli schizzi giungono dappertutto e senza fine? Vi sembrava che col caso Marrazzo si fosse toccato il fondo di questa mala politica fatta di ricatti, misteri, vergogna e violenza all'anima delle persone? Niente da fare, ora il ricatto hard tenta di colpire a destra e getta fango su Alessandra Mussolini. La notizia è questa: ci sarebbe un video che coinvolgerebbe la deputata del PDL e il leader di Forza Nuova Roberto Fiore in atteggiamenti, insomma, in un rapporto sessuale, mi pare di aver capito. Nell'articolo si dice: anche al giornale è stato offerto telefonicamente un tale video. Abbiamo risposto di no, che non ci interessava nemmeno visionarlo. Ieri però in Transatlantico ha preso a circolare un lancio di Indie Media, un sito dell'area No Global, nel quale si dice che esisterebbe appunto un video che ritrae i due in intimità, sesso esplicito, scrive Indie Media, nella sede romana di Forza Nuova. Immagini che sarebbero state girate dal circuito interno di videocamere, e colui che sta contattando diversi giornali per vendere il filmato sarebbe un ex stretto collaboratore di Roberto Fiore, già responsabile della sua sicurezza. Questa è la notizia, io ve la offro così, insomma. La trovate appunto solamente su Il Giornale in prima pagina. Trovate anche molto sulla vicenda della RU486 e l'apertura di Avvenire. RU486 punto e a capo. Sapete che è la pillola abortiva nata in Francia una ventina di anni fa, utilizzata in tanti paesi nel mondo, in Italia no. La sua introduzione nel commercio e nel nostro paese, insomma, è stata molto molto lenta, non è ancora arrivata, pare che stesse arrivando dopo il parere tecnico positivo dei tecnici dell'AIFA, l'agenzia del farmaco, ma ora c'è stato uno stop della Commissione Sanità del Senato. Prima si deve esprimere il governo. Avvenire giudica positivamente questo stop, il cinismo di chi non vuole capire. Scrive in un editoriale, nell'editoriale di prima pagina, Francesco Ognibene: la RU486 non è l'aborto dolce o meno invasivo, come vagheggia chi vorrebbe sbancare ogni forma di tutela della vita in nome di una libertà liquida. L'aborto chimico è una procedura lunga e dolorosa, un metodo brutale per mettere fine con le proprie mani a quella che germoglia, a quella vita che germoglia nel grembo, fino all'umiliazione di fare tutto da sé e di vedere quel poco che resta di una vita che poteva essere. La posizione opposta espressa da Umberto Veronesi in prima pagina di Repubblica. Repubblica titola: stop alla pillola abortiva, deciderà il governo. Le donne inascoltate, questo è l'editoriale, o meglio il commento di Umberto Veronesi. L'iter faticoso della pillola RU486 mette il dito su una piaga profonda del nostro paese, scrive Veronesi. Ciò che pensano le donne è raramente compreso, spesso è incomprensibile e quindi non conta o conta molto poco. Non si spiega in altro modo il braccio di ferro che dura ormai da anni sull'introduzione di una modalità di interruzione di gravidanza, quale la RU486, approvata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'Ente Europeo per il Controllo dei Farmaci, introdotta in tutta Europa negli anni 90 e negli Stati Uniti nel 2000. Insomma, Veronesi dice: non si capisce perché da noi no. Che ne pensate? Questo è il nostro sondaggio, ve lo ricordo, dovete votare su radio24.it o ilsole24ore.com. Ne parleremo poi alle 8:30. Che ne pensate dello stop del Senato? Vi voglio segnalare, a me è una vicenda che ha sconvolto un po' tutti, no? Il delitto delle mani mozzate. In questo paese, in provincia di Varese, no? Sapete che è stata trovata vari giorni fa, insomma, uccisa, ma anche con le mani mozzate, questa donna molto anziana, Carla Molinari, 82 anni. È un delitto che ha molto appassionato anche per l'efferatezza, insomma, del modo. Pare che ci sia un indagato, anzi c'è un indagato, Giuseppe Piccolomo, 58 anni, un ex ristoratore finito in malora, da ieri sottoposto a fermo. Tra l'altro sarebbe stato incastrato, o comunque c'è qualcosa contro di lui, perché una telecamera di un centro commerciale ha fissato quest'uomo che raccoglieva con una mossa furtiva il posacenere e svuotava il contenuto di alcuni mozziconi di sigaretta in tasca, in una scatoletta, e poi se l'è messo in tasca. Sarebbero gli stessi mozziconi che poi sono stati ritrovati nella villetta della donna uccisa, buttati lì con la speranza di depistare le indagini. Beh, davvero, davvero incredibile. Se è così, sarebbe stato incastrato da questa telecamera di un centro commerciale che lo avrebbe immortalato mentre raccoglieva mozziconi di sigarette di altri per buttarli poi sulla scena del delitto per depistare le indagini. Ovviamente staremo a vedere. Il motivo, il movente, secondo gli investigatori, sarebbe il fatto che è una persona appunto caduta economicamente in disgrazia, aveva bisogno di soldi e probabilmente sapeva che la donna li aveva. La donna probabilmente gli ha negato un prestito, da qui anche questo gesto molto di sfregio del taglio delle mani. Voglio concludere con due segnalazioni di calcio. Il mister antiviolenza invocato dai ragazzini, una vicenda che è accaduta in provincia di Piacenza, la racconta il Corriere della Sera. Tre ragazzi già espulsi, un quarto che si stava dirigendo con fare minaccioso verso l'arbitro, una partita del campionato allievi del Pro Piacenza, dunque 16-17 anni, l'allenatore che ha fatto? Ha preso la sua squadra, ha detto adesso vi fermate, tutti a casa, l'ho fatto per tutelare il direttore di gara, ho ritirato la squadra, era la squadra con gli espulsi, siete troppo violenti, ho detto ai miei ragazzi, risultato il presidente l'ha licenziato. Ha perso il posto, nonostante ora i giocatori abbiano scritto al quotidiano La Libertà di Piacenza, cospargendosi il capo, dicendo siamo noi da esonerare, abbiamo effettivamente esagerato con la nostra condotta, richiamate il mister, ma la vicenda è questa di Lorenzo Spotti, che trovate sul Corriere della Sera, pagina 29. A proposito di sport e di calcio, i cori vergognosi, razzisti contro Mario Balotelli continuano, tanto che l'Unità ci mette oggi in prima pagina una curva, è la curva della Juventus in questo caso perché arrivano da lì, e il titolo dell'Unità con la foto della curva è Stronzi, riferito ovviamente ai tifosi che insultano Balotelli. All'interno ci sono cinque pagine o quattro pagine sull'analisi di questa vicenda. Sì, sono stronzi e devono saperlo questi tifosi che insultano con un fare decisamente razzista per l'Unità Super Mario Balotelli. Non sono insulti da bar, ma razzismo vero e proprio.